Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora, ciao, bentrovati, bentrovate a tutti i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siamo ancora qui, tornati dopo la Santa Pasqua, nel nostro spazio radio della stampa rassegnata che, come sapete, è una sorta di annesso alla trasmissione più ampia di Passaggio a Nord-Ovest, con la quale Radio Wombat si propone di indagare, inchiestare, diciamo, il più possibile attraverso le vive voci dei protagonisti dei quartieri della città e dell'area metropolitana fiorentina, quelle che sono appunto le vicissitudini della nostra città e della nostra area metropolitana fiorentina. In questo spazio, come i nostri ascoltatori ormai avranno imparato, essendo questo il 13° pillolo dall'inizio del 2018, ci prendiamo la libertà di guardare la cronaca locale, notizie di cronaca locale attraverso i giornali che la riportano, con particolare riferimento a quelle che sono due vicende sicuramente profonde che attraversano la nostra appunto area metropolitana fiorentina, come più volte ripeto. La questione del possibile costruzione dell'inceneritore previsto per Case Passerini e la vicenda più larga, più ampia e con molte implicazioni dell'ampliamento, costruzione del nuovo aeroporto di Peretola. Facendo i saluti rituali, vi dico anche, come dovreste appunto sapere ovviamente, che ci ascoltate in diretta il lunedì alle 15.30 e in replica il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15.30. Per chi ha piacere di farlo, può ascoltarci diciamo da un mesetto circa in onde medie, quindi AM, alla frequenza, alla modulazione di frequenza di 1359, oppure per chi invece ha meno tempo o vuole scegliersi il momento della giornata in cui ascoltarci, potete scaricare il podcast dal sito di Radio Wombat, che trovate ovviamente semplicemente digitando Radio Wombat su un qualunque motore di ricerca, e ve lo scaricate, ve lo mettete sull'MP3 per chi è un amante del vintage come me, e ci ascoltate quando volete. Ecco, finiti i nostri saluti e i nostri bentrovati, ci dedichiamo un po' alla cronaca locale. Come vi sarete accorti, i miei 25 ascoltatori, per parafrasare sempre il Manzoni, che parlava dei suoi 25 lettori nei Promessi Sposi, Abbiamo saltato la settimana pasquale per riproporre la stessa stampa rassegnata della settimana precedente. Quindi riprendiamo un po' le cose da dove le avevamo lasciate e ci muoviamo in maniera non necessariamente cronologica, comunque tra la fine di marzo e l'inizio appunto della settimana nella quale andremo in onda e stiamo andando in diretta, che è per l'appunto lunedì 9 di aprile. Quindi in questo spazio tra la fine di marzo e l'inizio di aprile abbiamo selezionato alcune notizie più o meno utili ai discorsi che abbiamo sviluppato in questi mesi e che andiamo a riprendere. Vorrei appunto, dando subito un po' di accelerata a questa trasmissione, andare a guardare un articolo ricavato dal, diciamo, estratto dal Corriere Fiorentino del 24 di marzo, nel quale che commenta semplicemente dando abbastanza spazio alle stesse parole, agli stessi commenti del renzianissimo Carrai, appunto patron insieme ad altri di Toscana Aeroporti e da sempre in prima fila per il sì all'espansione e alla costruzione del nuovo aeroporto, diciamo contrattacca come titola anche l'articolo del Corriere, Peretola, Carrai al contrattacco, via i lavori anche coi ricorsi. Articolo che ci sembra particolarmente interessante. Ricorderete che ci eravamo lasciati l'ultima stampa rassegnata della metà di marzo con l'importante consegna, scrittura e consegna entro i tempi previsti dalla legge dei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, meglio noto come TAR, da parte dei comuni della Piana. Sono ricorsi contro il progetto di nuovo aeroporto, con ricorsi diversi, sia il sindaco di Sesto, sia il sindaco di Campi che di Calenzano, poi i comuni della, diciamo, del Pratese, per cui Prato, Carmignano e Poggio a Caiano, e poi anche il comune di Signa. A questi ricorsi si è aggiunto poi il ricorso della Unipol, diciamo, l'impresa. Sì, chiamiamola pure impresa, la finanziaria, insomma, comunque diciamo la proprietà dell'area sulla quale dovrebbe sorgere la Mercafir, che a sua volta ha impugnato un ricorso sempre contro la costruzione dell'aeroporto, tenendo conto, diciamo, ricorso che ci interessa in qualche modo sottolineare perché ha messo in evidenza come nel master plan presentato da Toscana Aeroporti per la costruzione e ampliamento del nuovo aeroporto c'è. Per i primi anni il mantenimento anche della pista attuale, cioè se tutta la vicenda ruota intorno a un importante spostamento in senso parallelo all'autostrada dell'attuale pista che invece è perpendicolare, sappiamo e abbiamo già smascherato già da tempo il fatto che nel futuro master plan Toscana Aeroporti lascia a se stessa la libertà di poter decollare e atterrare in tutte le direzioni che gli comodano, come abbiamo più volte detto, spalmando in questo modo il problema dei sorvoli su tutta l'area metropolitana fiorentina, sia nella direzione di Prato, sia nella direzione di Firenze, anche questo argomento sempre taciuto e occultato, ma invece molto molto molto rilevante, cioè circa il 20% dei voli per ragioni dovute ai venti che appunto colpiscono la piana in modo non indifferente, come sappiamo appunto anche da tutta la questione legata ai ritardi, al maltempo, ai non atterraggi, ai non decolli, ai voli persi, e che diventa poi sempre argomento diciamo di polemica sterile, o proprio perché insomma le condizioni meteo, a meno che non, qualcuno non riesca a dimostrarlo, insomma non sono manipolate da nessuno, né da comitati di cittadini, tantomeno insomma dai padroni, anche se forse tra i due chiaramente chi avrebbe maggiori possibilità di farlo sono certamente quelli che hanno più risorse economiche, quindi non certo i comitati dei cittadini autorganizzati, comunque al di là delle boutade di questo tipo. Toscana Aeroporti si riserva mantenendo sia la pista attuale, quindi ripeto perpendicolare all'autostrada, sia costruendo la nuova pista di 2400 metri, si mantiene la libertà di atterrare e decollare in tutte le direzioni. In questo senso, Unipol ha impugnato un ricorso al TAR, proprio perché si è accorta che in questo master plan il mantenimento dell'attuale pista esistente entra in conflitto con le previsioni di sviluppo edilizio in quell'area. Come comitati e come movimenti, chiaramente il ricorso dell'Unipol ci interessa, diciamo, rilevarlo e metterlo in evidenza, ma è semplicemente un altro tassello di questo puzzle di interessi e di appetiti, nei quali, appunto, in nessuno di questi ci sono gli interessi rappresentati, in nessuno di questi gli interessi degli abitanti, delle popolazioni e men che mai delle sue classi subalterne, proprio perché Unipol eventualmente tutela solo i suoi interessi, che sono interessi di ospitare nei propri terreni cementificazione, costruzioni, speculazione edilizia. Detto questo, quindi lasciato spazio un po' al riassunto, tra virgolette, delle puntate precedenti e ribadito quello che è la vicenda aeroportuale e dei ricorsi fatti dai comuni, ecco le dichiarazioni di Carrai rilevanti. Toscana Aeroporti resta a Firenze e Pisa, i cantieri per la nuova pista di Peretola partiranno senza attendere il giudizio del Tribunale amministrativo. La società risponde così ai sette comuni, più la Unipol, come appunto vi ho già riassunto, che hanno fatto ricorso al TAR per fermare lo sviluppo del Vespucci. Se i ricorsi saranno ancora pendenti, noi inizieremo, se ci sarà già stato un parere, e sarà stato un parere e sarà stato positivo, come confidiamo, visto il grande lavoro fatto, inizieremo. Se il parere sarà negativo, faremo ricorso. Quindi cosa dice Carrai? Siccome stiamo facendo un gran lavoro per appunto in qualche modo rimanere all'interno dei termini previsti dalla legge, se il ricorso fatto dai comuni dovesse essere negativo, noi andiamo avanti lo stesso. Se sarà positivo, insomma, staremo a vedere. Diciamo basta alle false notizie, questo è sempre Carrai, basta alle minchiate. Attenzione, qui c'è anche proprio l'utilizzo di questa parolaccia che in qualche modo va a sottolineare la determinazione delle sue dichiarazioni e quindi viene riportata così come viene detta dal giornale, senza nessuna censura, e a chi chiede cose irrealizzabili. Ecco, ci si rivolge anche proprio per, come posso dire, come potrei dire, il linguaggio non è mai casuale, quindi l'utilizzo della scurrilità, della volgarità in bocca a un personaggio come Carrai, che ovviamente non viene dalla strada, ma atteggiarsi per certi aspetti anche a persona della strada, vuole in qualche modo sicuramente sottolineare il fatto che gli argomenti dei suoi avversari sono talmente risibili da poter essere commentati anche così. Quindi non si entra nel merito della questione, dei punti, dei ricorsi, che invece ce ne sarebbe, lo abbiamo già detto e sicuramente ne parleremo ancora in futuro senza dilungarci ulteriormente adesso. Però ecco, queste sono le dichiarazioni di Carrai, a che a questi toni, con queste parole si rivolge a, diciamo, in maniera molto semplice e generica agli oppositori, siano essi primi cittadini, cioè i sindaci che hanno impugnato, siano le loro amministrazioni, i funzionari, le comunità che rappresentano, siano anche comitati auto-organizzati e cittadini che si organizzano dal basso, che all'interno delle stesse comunità rappresentate dai sindaci si muovono e si organizzano senza necessariamente riconoscersi tout court nelle prese di posizione dei sindaci. Questa è la situazione. Dichiarazioni di Carrai che ci sembrano da sottolineare, che ho voluto e voglio portare all'attenzione di tutti, proprio perché mettono in evidenza come è possibile che assisteremo a una situazione, diciamo, di doppio stato in cui alla maschera, che abbiamo già definito utilizzando l'espressione di Zagrebelsky, alla maschera democratica dell'oligarchia con la quale si presentano e quindi insieme al tentativo di rimanere all'interno dei termini di legge, di adeguare anche attraverso a costo di usare quella che Orwell chiamava neolingua, cioè di cambiare le parole, di mistificare la realtà attraverso l'uso di una fabulazione linguistica sempre nuova e sempre continua che va a coprire invece una realtà diversa, compresa anche la falsificazione di numeri e dati. Nello stesso tempo assisteremo anche probabilmente al tentativo di forzare il quadro, di condizionare la situazione attraverso l'apertura di cantieri, magari collaterali, e che con i quali appunto si tenterà in tutti i modi di forzare la situazione che, come vedete, anche da un punto di vista meramente tecnico-amministrativo, è proprio tutt'altro che risolta e definitiva, come abbiamo più volte avuto occasione di dire e di ribadire. Quindi attenzione alle parole di Carrai, perché proprio perché per esempio, nella scorsa estate abbiamo visto iniziare delle trivellazioni, degli spostamenti di terreno affidati a un'azienda che peraltro veniva da molto lontano, in barba ad ogni ragionamento ormai sempre più smascherato e falso sull'occupazione legata ai territori nei quali si sviluppano le grandi opere. Una ditta che appunto veniva a fare lavori di esplorazione geognostici da Viareggio, e abbiamo tentato e fatto fattivamente alcuni blocchi delle trivellazioni che comunque erano appunto propedeutiche ai lavori di costruzione, erano indagini geognostiche, quindi si mettevano le mani nei terreni per fare dei campionamenti, per farsi un'idea su come, dove, quando, in che modo realizzare l'aeroporto. Attenzione. Quindi quello che è successo a luglio, che è una situazione che come movimento e come abitanti abbiamo sottolineato e sul quale abbiamo lanciato mobilitazione, potrebbe verificarsi nuovamente. E su questo dobbiamo mantenere alta, come si dice spesso, la guardia e l'attenzione delle nostre comunità, soprattutto di quelle in lotta e che sono un pochino più avanzate da un punto di vista della maturità. Ancora un articolo sulla questione dell'aeroporto che appunto va a dimostrare ulteriormente quello che ho detto fino ad ora dalla Repubblica del 7 d'aprile, quindi con uno stacco temporale abbastanza lungo ma rilevante, Peretola non trova pace, inchiesta sulla vasca mai fatta. Indagine della Procura non riguarda le nuove piste, ma la sicurezza idraulica di quella esistente. Quindi di che si sta parlando? Si sta parlando del fatto che la magistratura la procura indaga sulla sicurezza idraulica, in pratica cercando di riassumere un po' il discorso. Sappiamo che nel 2003 ci sono state delle prescrizioni fatte all'attuale aeroporto di Peretola, che ha avuto comunque una sua espansione per arrivare all'aeroporto, diciamo al volume di traffico, alle dimensioni e al capacità di far decollare e atterrare che ad oggi conosciamo. In queste prescrizioni sono arrivate sul master plan, cioè sul progetto di sviluppo presentato da quella che allora era ADF, cioè Aeroporto di Firenze, che non era ancora l'attuale Toscana Aeroporti. Tra queste prescrizioni, perché non è l'unica, c'era quella di, diciamo di, appunto qui parla di vasca, come si può dire, di tutelare con, appunto, tutelare attraverso questa vasca, che non so, scusate, a volte su dei tecnicismi diciamo rimaniamo un po' in imbarazzo per, diciamo, la difficoltà, non la totale incapacità di descrivervi, ma sicuramente per la difficoltà. Si sta parlando del fatto che nell'area attuale aeroportuale c'è un problema di gestione eventuale di acque provenienti appunto da monte, dalla zona di Monte Morello e della Galvana, quindi lì siamo nella, diciamo nella tutela del bacino idraulico e della rete idraulica. Questa tutela, da questo punto di vista idraulico per l'appunto, non è mai avvenuta, non è mai stata realizzata, proprio perché evidentemente entrava in conflitto con le previsioni e lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola attuale. Ovviamente questa cosa è uscita, è già stata denunciata per esempio in un video che ha avuto anche un relativo successo, insomma si fa per dire successo, non è uno show, è un successo diciamo di pubblico pensante sui social network, anche nelle parole del sindaco di Sesto Falchi, che ha subito sottolineato come le mancanze nella realizzazione nell'attenersi alle indicazioni, e ai vincoli, alle regole ambientali e di tutela ambientale poste ad ADF nel 2003, la stessa Toscana Aeroporti, che ad oggi vorrebbe un aeroporto intercontinentale, come ci si può fidare di chi nel 2003 ha già violato quelle prescrizioni? È utile, diciamo, per i nostri ascoltatori e appunto per tutti quelli che stanno collegati su Radio Wombat, ricordare che non solo la questione della vasca e della tutela del bacino idraulico è stata violata da Aeroporti di Firenze nel 2003, ma le prescrizioni arrivate dal Ministro dell'Ambiente sono state diverse. Per esempio, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, ADF, cioè che la società gestrice, avrebbe dovuto eseguire un aggiornamento almeno biennale della zonizzazione acustica aeroportuale e per le abitazioni ricadenti in zona C, cioè evidentemente quella più esposta al rumore da sorvoli, ADF avrebbe dovuto provvedere, ai sensi di un decreto ministeriale del 97, alla delocalizzazione delle abitazioni, mentre per quelle ricomprese nelle zone A e B avrebbe dovuto prevedere interventi di mitigazione acustica. Sto, diciamo, leggendo e riassumendo nello stesso tempo dal ricorso presentato dai comitati contro l'attuale aeroporto, che giustamente ripercorrono anche la vicenda passata. Quindi, tra le prescrizioni che il Ministero dell'Ambiente aveva dato ad Aeroporti di Firenze nel 2003, non c'era solo la vasca per la tutela idrica, come abbiamo detto e visto dall'articolo di Repubblica, ma per esempio la questione del rumore. Quindi mitigazione acustica, si sta parlando di doppi vetri, doppie finestre e altre forme di isolamento acustico per le zone comprese nelle zone A, classificate A e B, e per le case invece all'interno del cono di rumore più forte, quindi una zona denominata A, classe A, avrebbe dovuto provvedere alla delocalizzazione, cioè far in qualche modo sottrarre le case e ricomprare, compensare le persone spostate da una zona all'altra. Ovviamente, come sapete, come sa soprattutto chi sta a Peretola, nessuno si è mai mosso, nessun soldo è arrivato per le mitigazioni acustiche e a Peretola è rimasto tutto com'era. Non c'era solo questo, c'erano anche altre prescrizioni. Per esempio, la società gestrice, sempre Aeroporto di Firenze, avrebbe dovuto effettuare costanti e precisi interventi di monitoraggio della qualità dell'aria e di mitigazione dell'inquinamento atmosferico. E poi, sotto il profilo della sicurezza del rischio di incidente aereo, si prevedeva espressamente che, in considerazione dei possibili eventi incidentali connessi al traffico aereo, con eventuali interferenze sull'autostrada Firenze-Mare, peraltro già verificatisi in passato, ci si sta riferendo a un incidente che molti ricorderanno in cui un aereo praticamente atterrò sull'autostrada, il proponente dovrà, subordinatamente allo studio di rischio e previo accordo con la società autostrade, provvedere alla realizzazione del, udite, interramento completo con la copertura a livello del piano mediante tunnel artificiale di adeguata lunghezza del tratto autostradale in direzione dell'asse della pista atterraggi-decollo dell'aeroporto. Quindi cosa si dice? Si prevedeva e si imponeva che lo sviluppo dell'aeroporto attuale di Peretola fosse subordinato al interramento del tratto autostradale sorvolato. Ovviamente tutti avete esperienza di quel tratto di autostrada e tutti sapete che si passa in superficie quasi toccando gli aerei con la mano. Queste erano le prescrizioni, quindi le indagini della Procura sono solo per oggi. Chiedono conto solo della questione della vasca idraulica, ma noi sappiamo con certezza che ce n'erano ben altre. Tutte queste cose non sono ancora venute fuori se non dai microfoni come questo, cioè microfoni e frequenze veramente libere, senza sponsor e senza padroni, e stanno venendo fuori dai ricorsi dei comitati. Quindi sono solo ed esclusivamente alcuni cittadini autorganizzati che stanno dicendo quello che nel 2003 è successo e che continua a condannare oggi le popolazioni di Peretola, Quaracchi soprattutto, Brozzi e Le Piagge al rischio dei sorvoli e a tutte le difficoltà legate al rumore. Questo è quanto. Ovviamente hanno ragione tutti coloro che dicono questa società ADF che è diventata oggi Toscana Aeroporti e si candida a costruire un aeroporto intercontinentale, a che condizioni? Eppure c'è continuità dei dirigenti, sono sempre gli stessi, ci dovremmo fidare? Ovviamente la nostra risposta è scontatamente no. Andiamo avanti, togliamo, diciamo, la testa e le mani dall'argomento aeroporto, più o meno, perché chiaramente le cose sono sempre collegate, la nostra prospettiva cerca di essere sempre sistemica, e guardiamo un attimo questa bagarre che ha e continua in qualche modo a avere un forte spazio nel palcoscenico mediatico, la vicenda legata ai bivacchi, al mangificio, a quella che giornalisticamente è stato definito Borgunto, cioè la Via De Neri, strada famosa in Santa Croce da sempre, che negli ultimi anni ha avuto un'impressionante apertura di diciamo botteghe, botteghini, ristoranti, ristorantini dove mangiare e che a seguito dell'enorme successo di un locale, mi pare sia l'antico vinaio, che fa delle schiacciate che sembrano essere la fine del mondo o forse è più la, anzi senza forse, è più la mediatizzazione del fenomeno, la sovraesposizione attraverso i social network e per esempio TripAdvisor. È diventato insomma una meta di vero e proprio pellegrinaggio turistico, ponendo dei problemi di gestione di questi flussi turistici. Si è appunto questa vicenda sta dominando il palcoscenico mediatico, sta dominando il palcoscenico mediatico perché è una, in qualche modo è una sagra, è una fiera di piccineria bottegaia dove gli affari di uno vengono guardati male da un altro, dove manca probabilmente la più elementare il più elementare buonsenso, la più elementare capacità di guardare ai problemi concreti della vita piuttosto che alle minchiate, permettetemi questo termine un po' alla Carrai, come abbiamo visto pochi minuti fa. Comunque, succede che appunto Nardella cominci a parlare tanto per cambiare di usare gli idranti contro i turisti per bagnare i marciapiedi, perché questa gente che va a mangiare attratta appunto, probabilmente guidata dai propri smartphone, dai markers che sempre di più si moltiplicano nelle nostre città e condizionano fortemente la nostra, appunto, le nostre quotidianità, non solo quando siamo turisti, ma in generale, portano moltissima gente in Via De Neri, la portano a mangiare in locali nei quali si entra per prendere una schiacciata, poi si esce, si ha voglia di, appunto, di consumarla e non trovando dove sedersi. E teniamo anche conto, non potendo andare sui sagrati perché già sono stati oggetto di vigilanza e azioni di vera e propria interdizione militare da parte della giunta e dei vigili e dei corpi antiregrado, la gente non trova di meglio che sedersi sugli spuntoncini dei marciapiedi. Questa cosa suscita in altre tipologie di bottegai particolare invidia e amarezza e viene fuori che insomma, vengono ingaggiate delle guardie, diciamo, volontarie e private per garantire la sicurezza. Ci sembra del tutto fuori luogo, porre, la questione in termini di sicurezza, eventualmente, forse porla in termini di vivibilità, ma indubbiamente la grandissima difficoltà è che nel centro di Firenze, come in molti altri centri storici, sta proprio venendo a mancare un attore protagonista importante che sono le comunità degli abitanti e dei residenti, la cui assenza si sente fortemente poi nel dibattito, perché mancando coloro che ci vivono e possono o potrebbero porre il problema in termini di condizioni di vita e di vivibilità di un quartiere o di una zona della città, tutto resta in mano a coloro che si scannano per utilizzare un territorio in una direzione piuttosto che in un'altra, ma sempre all'interno di conflitti che in qualche modo sono economici e sulla destinazione d'uso della porzione del pezzo di città. Su su questa vicenda è intervenuta in maniera, mi sembra veramente interessante, una piccola ricerca fatta da Francesca Conti, uscita in questi giorni, insieme al numero della Città Invisibile, giornale che, segnaliamo, segnalo, di cui vivamente consiglio la lettura e la verifica o l'iscrizione per ricevere le newsletter in modo periodico, e del quale mi avvalgo per andare a fare una, diciamo, una disamina di questa vicenda, nella quale, facendo una piccola ricerca appunto fatta da Francesca Conti, che ringraziamo per questo contributo che ci dà, ci dà delle informazioni davvero interessanti, informazioni che ci permettono di andare a guardare poi il fiasco e l'insuccesso, ancora una volta pressoché totale, della giunta del Partito Democratico Fiorentino e più in generale toscano, o se, senza in tranquillità potremmo estenderlo a livello nazionale. Come ho già ricordato nell'ultima mia cronaca di stampa rassegnata, ragionando intorno alla vicenda delle minacce di sgombero al Centro Popolare Autogestito a seguito dell'intervento della Barbara Balzerani, ex brigatista rossa, avevo segnalato come già c'era stato l'apertura alla sicurezza partecipata in linea con il decreto Minniti, e però nel momento stesso poi in cui questa strada di sicurezza partecipata, cioè che permette ad associazioni di cittadini di svolgere compiti di sorveglianza territoriale, certamente non in conflitto o sostituendo le forze dell'ordine, ma affiancandole in termini di legge, nel momento in cui poi qualcuno questa strada la imbocca davvero, si corre ai ripari perché si sta rischiando di aprire a degli impresentabili. Bene, in questa vicenda di Via De Neri, come ho detto, Borgunto, veramente si sono infilati degli impresentabili, e grazie a Francesca Conti sappiamo chi sono. Ora io cercherò di leggervi il più possibile velocemente però questo articolo, che quasi per intero, che ha scritto Francesca, che ringraziamo e salutiamo anche dai nostri microfoni. Il comitato di Via De Neri, guidato da Roberta Pieraccioni, negoziante e anche consigliera del quartiere 1 per Forza Italia, ha ingaggiato le guardie volontarie contro i bivacchi. Ed è proprio in questo esatto momento, con l'entrata in campo dei volontari dell'Associazione degli Osservatori Volontari per la Sicurezza Urbana, che la storia dei marciapiedi, resi scivolosi dall'unto dei panini, perde di botto ogni area aurea goliardica di storia buffa, condita di battute fiorentine. Iniziative di questo tipo sono state rese possibili a partire dal 2009, con il pacchetto sicurezza, che tra le altre cose ha reso possibili le ronde, stabilendo gli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, e poi a seguire, come sappiamo e come ho detto, dal decreto Minniti. Le foto pubblicate da Firenze Today, chi vuole se le guarda e se le cerca, digita su Firenze Today guardie volontarie, volontari, Via De Neri, e senza difficoltà le troverà e gli appariranno. Le foto pubblicate da Firenze Today a corredo della notizia mostrano quattro signori con giglio rosso alato, disegnato su pettorina scura, ad accompagnargli un cane lupo dall'aspetto piuttosto bonario, a dire la verità. Leggiamo sul Corriere Fiorentino che i volontari, che comunque percepiscono 250 euro al mese, sono stati accolti a braccia aperte da negozianti e abitanti e dovranno favorire il flusso dei mangiatori di schiacciata e far sì che non intralcino passaggi vari. A conti fatti, niente di trascendentale, ma noi ci siamo incuriositi e volevamo saperne di più. Da una breve ricerca in rete è venuto fuori che il presidente dell'associazione è Claudio Naldoni, ex calciante dei Bianchi. Era salito agli onori della cronaca nel 2011 come presidente di un'altra associazione, la Settimo Rai, R.A.I. Settimo Rai Camp, dove Rai sta per reparto assalto e interdizione, e come proprietario di un'area a Roveta nel comune di Scandicci, dove c'era un campo di soft air, giochi di guerra simulata. Niente di illegale, neanche di pericoloso, ma appunto nel 2011 Antonio Cataldo, un contractor, cioè un mercenario italiano, viene fatto prigioniero in Libia insieme a due colleghi, mentre cerca un ingaggio nel settore della sicurezza privata in Tunisia, e una volta liberato afferma di essere stato formato proprio in questo campo. All'epoca, sollecitato da diversi giornalisti, Naldoni dichiarò che che quelle realizzate a Roveto erano soltanto attività ludiche e che nessuno veniva formato per la guerra in quel campo. Interessante comunque leggere quanto riportato su alcuni articoli sulle attività che si svolgevano a Roveto e riportate sul loro sito. Sulla Nazione del 31 agosto 2011, Francesca ha recuperato quell'articolo, si leggeva: a maggio in particolare si sono tenuti corsi di diritto islamico, pattuglia da combattimento, diritto internazionale umanitario. A giugno invece è stata la volta di pattuglia da ricognizione, ma soprattutto tiro dinamico, tiratore sniper, che vuol dire cecchino, e applicazioni tattiche degli esplosivi. A luglio poi si è tenuto il corso di combattimento in aree urbane, mentre ad agosto i giocatori hanno sperimentato il corso di sopravvivenza. La sezione addestramento militare nel sito invece è stata oscurata. È possibile dare un'occhiata attraverso la cache di Google. Si legge che si tratta di corsi rivolti a militari in servizio e civili appassionati di tecniche militari. Ad oggi, per la cronaca, il sito www.settimoraicamp.it è irraggiungibile e in stato di pending delete. Del resto, Antonio Cataldo, cioè quel contractor di cui si diceva prima che è stato addestrato al Rai Camp di Naldoni, risulta un personaggio a dir poco sui generis, tanto che le ultime notizie su di lui, del 2015, lo dipingono come un foreign fighter a fianco dei ribelli filorussi nell'est dell'Ucraina. Al di là di tutto, di tutti questi intrecci, viene da chiedersi se davvero sia così opportuno mettersi per strada come volontari. Chi ama così tanto giocare alla guerra? Mi sembrava davvero un intervento breve ma interessante di una ricerca fatta semplicemente guardando la rete. Usciamo da Borgunto, per dirla così, appunto ormai tutti sudati e pieni dell'unto di queste schiacciate, però siamo riusciti a sfuggire, forse anche grazie all'unto, alle maglie della repressione, anche di quella. Anche di quelle della sicurezza partecipata allargate ai nuovi volontari con pettorina e cane lupo, e andiamo invece ad un altro articolo, anche questo la ringraziamo e la risalutiamo, anche questo casualmente però capita a fagiolo, la denuncia che ha sollevato ancora una volta il gruppo urbanistico di Per un'altra città, ad opera di Ilaria Agostini, alla quale è stato concesso lo spazio su Repubblica per la denuncia sulla questione della variante che si appresta o che in qualche modo speriamo non venga mai fuori, ma che comunque è in discussione in commissione urbanistica e sulla quale credo sia opportuno appunto dare un altro spazio a una lettura per questa vicenda che merita assoluto interesse. Quello che dicevo prima appunto torna a bomba in questo. Su questo aspetto e su questo argomento specifico, cioè una città, il centro storico di Firenze, nel quale si scatenano continuamente gli appetiti, soprattutto della rendita fondiaria e degli immobiliaristi, nella quale non si accontentano perché c'è un conflitto, come abbiamo più volte detto e di cui abbiamo parlato, tra chi vuole una città del lusso e quindi dove si alloggia in albergo, preferibilmente 5 stelle, e invece la città low cost di quelli che vanno nell'Airbnb. Quindi, ancora una volta, il conflitto è anche poi sul, diciamo, l'alimentazione. Si va a mangiare al ristorante, seduti, meglio se ristoranti di lusso. Non si mangiano schiacciate e panini per la strada in Via De Neri. Quindi c'è poi anche tutto questo aspetto, questo conflitto. La città del lusso o la città del turismo di massa? Gli idranti contro quelli che mangiano per la strada e invece la tutela di quelli che mangiano seduti nei ristoranti di lusso, la campagna contro air bed and breakfast e l'apertura agli studentati di lusso, come abbiamo più volte visto e detto. In tutto questo, il Comune di Firenze che va a fare? Ilaria Agostini ci racconta. Firenze dice addio al restauro edilizio su monumenti e immobili storici. E questo è il contenuto di una variante al regolamento urbanistico in fase di discussione nelle commissioni comunali. Il restauro è stato consacrato dalla cultura e dalla prassi come il metodo di intervento più indicato per l'edificato delle città storiche, il restauro. Finora in Italia questo dogma operativo, tra virgolette, non era mai stato messo in crisi formalmente. Firenze invece si pone all'avanguardia nello smantellamento di un principio che ha segnato a livello internazionale il metodo della conservazione urbana messo a punto in Italia. Infatti, proprio in base alla variante, all'articolo 13 del regolamento urbanistico, le opere edilizie sull'interezza degli immobili storici non si limiteranno più al restauro come finora avveniva. Pure, e ciò è particolarmente grave, gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio sono messi a rischio dalla recente proposta del Comune. Sugli edifici monumentali, sul patrimonio dell'umanità, il restauro sarà sopravanzato dalla ristrutturazione edilizia. Per i non addetti ai lavori, ciò significa che il piano regolatore non indicherà più alcuna limitazione di trasformazione, poiché la ristrutturazione edilizia è la classe di intervento più invasiva e permissiva, quella che arriva a consentire la massima libertà trasformativa, comprendendo persino la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in tutto o in parte diverso dal precedente. È come dire che, secondo la variata disciplina urbanistica, sugli Uffizi o sulla villa di Rusciano si potrà agire con la stessa libertà con cui si opera su un capannone industriale. Ma come garantire allora la tutela degli immobili monumentali che il mondo intero ammira? Come garantire l'osservanza dell'articolo 29 del codice che prescrive appunto il restauro come misura di conservazione dei beni culturali? Il Comune, unico caso in Italia, non condizionato da alcuna previsione di piano le trasformazioni, demanderà completamente, anche in contrasto con gli obblighi conservativi posti in campo agli enti pubblici territoriali dall'articolo 30 del codice medesimo, l'indirizzo delle modifiche degli immobili notificate alla discrezionalità della sovrintendenza che, con trattative riservate, ne definirà i limiti. Sempre che gli uffici, scarni e indeboliti, non facciano scattare il silenzio assenso sulle proposte pervenute. È particolarmente grave, ma è anche il segno del nostro tempo mercantile e servile, l'atteggiamento del Comune. Rimettendo alla soprintendenza il destino degli edifici monumentali, esso recede da un compito costituzionale. L'urbanistica quale funzione primaria ed essenziale concernente l'assetto e l'utilizzo del territorio. La variante in questione trova la sua origine nello stallo dei cantieri nel centro storico fiorentino, bloccati nella primavera del 2017 in conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale. A fronte di questa situazione, il sindaco Nardella si reca a Roma per invocare aiuto. Ecco, questo è un atteggiamento tipico di Nardella. Quello che è stato fatto poi anche rispetto alle vicende aeroportuali è la stessa cosa. Quando ci sono stati dei problemi sulle prescrizioni per la VIA, si è invocato un aiuto al governo e puntualmente a luglio del 2017 era arrivato il decreto Galletti, legge nazionale. Continuo a leggere. Il risultato del viaggio a Palazzo Chigi, di cui la stampa dette ampia eco, fu la modifica del testo unico dell'edilizia, che andava a riconfigurare proprio la voce restauro. Tuttavia, secondo il Comune di Firenze, che forse da Roma si attendeva addirittura qualcosa di più, la nuova categoria del restauro risultava persino nociva per gli edifici storici e non ne avrebbe garantito la tutela. Per la loro efficace protezione, gli uffici comunali, anziché rinforzare le misure di tutela, abbassano l'asticella, bandendo il vincolo di restauro dal territorio comunale. È la terapia d'urto che si compirà qualora la variante venisse approvata e che coinvolgerà tutto il tessuto edilizio storico, i luoghi monumentali e i beni culturali pubblici posti in vendita nei piani di alienazione, già venduti o oggetto di grandi cantieri, il Teatro Comunale, l'ex Tribunale in Piazza San Firenze, il Convento di Monte Oliveto, che qualcuno ricorderà era stato anche occupato dalla lotta per la casa, la Fortezza d'Abbasso, la ex caserma Cavalli in Piazza del Cestello, la Camera di Commercio, la Manifattura Tabacchi, il complesso di Santa Maria Novella, solo per citarne alcuni. Eludere la pianificazione della città storica, affidare alla libera discrezione della soprintendenza agli edifici vincolati, abolire il restauro sull'edificato storico della città e dei dintorni di Firenze significa che ogni intervento sui beni culturali può essere autorizzato, significa stravolgere i connotati e intaccare il patrimonio unico e irriproducibile delle nostre città antiche. Eliminare i vincoli alla trasformazione corrisponde a rendere più appetibili i grandi edifici pubblici in vendita. ma favorire l'acquisizione di interi settori urbani ai grandi capitali produce come diretta conseguenza lo spossessamento e l'espulsione dei residenti, in particolare di chi, indoviniamo un po', delle classi a basso reddito, e Firenze ha già preso la cattiva strada. Ecco quindi che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora si somma a questa vicenda sulla quale fortunatamente è partito un appello, fortunatamente c'è degli interventi critici e speriamo che possano in qualche modo dare del filo da torcere a questa ennesima deliberazione che va a svincolare e ad alleggerire la pianificazione territoriale da parte del pubblico e mettere in mano l'iniziativa ai privati, ovviamente ai grandi privati. Andiamo a un'altra notizia presa dal 27 marzo, una notizia ormai di qualche tempo fa. Il giudice dice: Palestre Club, Moretti rinviato a giudizio per bancarotta. Una notizia che diamo tanto per ribadire la moralità di certi soggetti. Il nostro signor Moretti, che in molti ricordiamo come diciamo un avversario per quanto riguarda la questione dei rifiuti, perché da ex presidente di Quadrifoglio è sempre stato uno favorevole alla cosiddetta chiusura del ciclo dei rifiuti a mezzo incenerimento. Chiusura che fa ridere perché non si chiude assolutamente niente, perché tutto quello che viene bruciato poi si trasforma e sappiamo che spesso e volentieri si trasforma in cancri, leucemie e malattie croniche cardiorespiratorie. Comunque, appunto, proprio per ribadire l'onestà e la moralità di soggetti come il signor Giorgio Moretti, c'è questa inchiesta sulle palestre club di Firenze, nelle quali, si indaga il fatto che, il presidente, appunto, che sì, sia il presidente Giorgio Moretti, cioè presidente per 9 anni a titolo gratuito del Quadrifoglio, fondatore degli Angeli del Bello e titolare della società di informatica sanitaria Daedalus, è accusato di aver provocato il dissesto della club gestione operative, di cui secondo il PM Paolo Barlucchi è amministratore di fatto. Per la procura Moretti ha asciugato i ricavi della società, stipulando convenzioni di uso per la gestione delle 3 palestre club di via Marignolle, Conti e via Lulli a prezzi esorbitanti e insostenibili, a favore della Contact, società di cui Moretti detiene il controllo delle quote sociali. Secondo le accuse, va avanti nell'articolo, le palestre club, pur non essendo iscritte fino al 2010 al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive, pagavano le tasse come società sportive dilettantistiche con finalità sociali e dunque senza caricare l'IVA. Ecco, siamo a questo. Le palestre club, che già solo per la loro collocazione, ripeto le vie nelle quali sono collocate, via Marignolle, per chi ha presente, siamo sopra via Ugo Foscolo, a bello sguardo, una delle palestre credo più lussuose di Firenze, con i prezzi credo più inavvicinabili d'Italia, via De Conti, quindi in pieno centro, via Lulli, zona Piazza Puccini. Queste palestre non pagavano le tasse perché risultavano avere finalità sociali e dilettantistiche. Siamo a questo. Nel 2010 la Commissione Tributaria di primo grado stabilì che le palestre erano invece attività commerciali. Ecco, poi a un certo punto qualcuno se ne è accorto, insomma, che i biglietti si pagavano e si pagavano anche cari. L'accordo dice che in qualche modo riconosceva alla club un 20% di finalità sociali e per il PM consentì alla società un risparmio di oltre 2 milioni di euro. Ecco, il 20% gli consentì un risparmio di 2 milioni di euro, quindi fate voi quali erano invece i guadagni di questa società. E niente, stanno andando avanti le indagini, vedremo, ci ritorneremo più avanti. Ci sarebbero moltissime altre cose di cui parlare, avevo selezionato un sacco di altre notizie, vado a leggerne solo una perché mi sembra interessante rispetto appunto alle tante cose che abbiamo detto in questi mesi, su Villa Donatello. Villa Donatello, notizia dalla Repubblica del 4 aprile, che ci dice: Villa Donatello piace ai fondi arabi, Unipol vende l'edificio per 40 milioni. Anche il Four Seasons avrebbe fatto sondaggi, ma l'edificio non è adatto. L'articolo ci dice che la casa di cura, sede di ambulatori specialistici e analisi, che si trova tra l'altro sopra il Four Seasons, nel senso che il Four Seasons, che c'è proprietario dei giardini della Gherardesca, anche quelli in una cessione assolutamente banditesca da parte come patrimonio. Come patrimonio pubblico, regalati e acquisiti dal Four Seasons, si trova all'interno dei viali, diciamo tra Borgo Pinti e i viali, insomma, dalla parte del centro. Dalla parte opposta del piazzale Donatello sorge appunto Villa Donatello. Anche il Four Seasons è tentato dall'acquisto. Unipol se ne va da Villa Donatello e vende, sposterà l'attività sanitaria a Villa Ragionieri, zona di Sesto. Si sarebbero fatti avanti fondi arabi che vorrebbero aprire. Che cosa apriranno? Ah, sì, ecco, avete perfettamente indovinato: un albergo. In città si fa anche il nome del Four Seasons, ma dal punto di vista strutturale la vecchia clinica non sarebbe adatta, nel senso che non permetterebbe di realizzare stanze abbastanza grandi, perché il Four Seasons fa stanze solo dagli 80 metri quadri in su, come richiesto per gli alberghi super lussuosi come quello de Borgo Pinti, cioè sempre il Four Seasons. Sul prezzo c'è riserbo, ma si tratterebbe di circa 40 milioni d'euro, solo se, ovviamente, solo se il comune concederà la variante urbanistica per passare da attività sanitaria ad albergo. Ma secondo voi che farà il comune di Firenze? Gliela darà o non gliela darà la variante urbanistica? Ma poc'anzi abbiamo letto che si sta trasformando il restauro in ristrutturazione edilizia, quindi credo proprio che ci possano contare. C'è però un piccolo inghippo, e qual è? Anche questo è uno scoglio e pare che Unipol non abbia alcuna intenzione di occuparsene. Toccherà a chi pensa di acquistare mettersi in contatto con Palazzo Vecchio per sapere se è percorribile la strada del cambio di destinazione. Il proprietario di Villa Donatello è nome che ho nominato all'inizio della nostra trasmissione, così andiamo a chiudere con una certa circolarità che fa sempre un po' cabala. Che è appunto la Unipol. La Unipol è la stessa che ha fatto ricorso al TAR contro l'aeroporto. Aeroporto che è fortissimamente voluto dalla Giunta Nardella, dal PD fiorentino, e che quindi probabilmente per fare un dispetto a Unipol potrebbero anche non dargli il cambio di destinazione d'uso su Villa Donatello, che ovviamente è il viatico per moltiplicare i guadagni passando da struttura sanitaria a struttura ricettivo-alberghiera. E allora Unipol furbescamente che fa? Dice: non saremo noi a chiederlo perché ci potrebbero dire di no. Qualcuno se la compra e poi gliel'andrà a chiedere. Ci immaginiamo che il gioco della Unipol sia tutto sommato abbastanza intelligente e ci sembra facile prevedere come andrà. È possibile che i fondi arabi acquistino e quando sarà il re dell'Oman o quando sarà uno sceicco pieno di petrodollari di Abu Dhabi a chiedere a Nardella il cambio di destinazione d'uso, glielo concederà. Questa è la previsione più facilmente verificabile. C'è poi a seguire della notizia tutto un altro capitolo che sarebbe interessante indagare con i compagni, le compagne, gli abitanti, i cittadini e soprattutto i lavoratori che fanno parte, per esempio, del Coordinamento Toscano per il diritto alla salute. Che è il trasferimento appunto diciamo, dei lavoratori da Villa Donatello privata a Villa Ragionieri pubblica. Capire che tipo di relazioni ci sono, cosa il pubblico paga o cosa guadagna, cosa cede il privato o cosa il privato guadagna. È un aspetto abbastanza tecnico del quale è inutile stare a fidarsi e a dedurre dai giornali e sarebbe interessante, magari ci riserviamo di farlo in un futuro prossimo appunto con coloro che nella sanità ci lavorano e all'interno dei processi di privatizzazione, di svendita e di commercializzazione e mercificazione del diritto alla salute, tentano dei percorsi di opposizione, resistenza e costruzione di alternative dal basso. Con questo vi saluto, un pugno chiuso, ricordandovi che ci sentite in diretta alle 15:30 il lunedì e sulla frequenza dell'1359 in onde medie, oppure con le repliche il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15:30, oppure ancora vi scaricate il podcast. Un saluto a tutti e a tutte, pugni chiusi e buona lotta!